got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera a cena abbiamo una campionessa della nostra pallavolo femminile nel Club Italia. Stiamo parlando di Paola Egonu. Buonasera Paola. Buonasera anche a voi. Grazie a te di essere con noi. La squadra è quella del progetto federale che mette insieme le migliori giovani selezionate delle società di tutto il paese, di tutta Italia. Sì. Paola, io so che lei però ci ha portato un piatto questa sera a cena. Sì, mi ha portato il mio piatto preferito, che è composto da del platano e uova fritte. Un piatto che cucina chi? Mia mamma. Sa che è il mio preferito, quindi le poche volte che torna a casa cerca di prepararmelo. Lei è nata a Cittadella, in provincia di Padova. Vive a Galliera Veneta, sempre in provincia di Padova, ma non è esattamente un piatto padovano. No, è un piatto nigeriano, perché ho le origini nigeriane. Allora, lei appunto è italiana, ma i suoi genitori provengono dalla Nigeria e rappresenta l'Italia nella pallavolo femminile. Tra l'altro non è una novità avere queste atlete italiane che hanno origini straniere. Abbiamo sentito qualche tempo fa Valentina Diouf, no? Che è una, credo, anche un esempio per lei, no? Perché è un po' più grande. Ecco. E comunque anche in squadra con voi ci sono delle ragazze italiane di altre origini. Sì, la mia compagna di stanza, Alexandra Botezat, Vittoria Piani, Ofelia Malinov. E insomma, siete più di qualcuna, quindi credo che ormai anche l'Italia di oggi sia rappresentata bene, l'Italia che sta cambiando anche dalla nazionale di pallavolo. Lei è appena tornata, no? Ci ha portato questo piatto, ma so che è reduce da un viaggio, è un viaggio tra l'altro di successo, no? Guardiamo a Rio ormai, giusto? Sì. Siamo riusciti a qualificarci, una bellissima soddisfazione, e ora si comincia con la preparazione e speriamo bene. La sua è una bellissima storia, una storia di integrazione per quanto riguarda i suoi genitori, una storia di successo di questa Italia che cambia anche grazie all'apporto di questi italiani che hanno radici da qualche altra parte. Le sue radici sono in Nigeria, ce lo raccontava prima da questo piatto. E che cosa della Nigeria le appartiene e in cosa invece si sente pienamente italiana? La cultura nigeriana, la tradizione, mentre per l'Italia penso ormai tutto, nel senso la lingua, i miei modi di fare. Lei tra l'altro si è resa autonoma molto presto grazie allo sport, no? È andata via di casa molto giovane. Sì, a 13 anni, 4 anni fa, è stato molto difficile all'inizio perché era la prima volta che facevo un'esperienza del genere, però sono molto felice di aver intrapreso questa strada e penso che se dovessi tornare indietro la rifarei. Insomma, 13 anni, molto piccola, ha lasciato i genitori per continuare l'attività sportiva in maniera molto seria e tutto questo è stato anche grazie a uno sprone di suo padre, se ho capito bene, che la spronava a giocare a pallavolo. Sì, mi ha consigliata, nel senso mi ha detto se vuoi, perché non provare? Perché ero molto timida e non mi piaceva molto relazionarmi con gli altri, però ci ho provato e è andata anche bene. È vero che fra le nuove abitudini che ha dovuto imparare con le compagne nella nuova vita al Club Italia, quella c'è stata anche quella di parlare durante i pasti. Perché Sì, non è un'abitudine perché nigeriana? no, non è un'abitudine. Di solito noi mangiamo in silenzio uno per non soffocare. E prima ci raccontava di un piatto di sua madre. A casa sua, quindi, le tradizioni erano nigeriane anche in cucina, sono Sì, nigeriane anche in cucina. Quindi la mamma cucina questo famoso riso speziato della Nigeria, no? e anche la carne è molto speziata, soprattutto piccante. Molto buona e che mi manca. E com'è stato crescere a Cittadella? Un paesino tranquillo, poche persone, ci conoscevamo tutti, mentre qui è l'inverso, qui è molto grande, ci sono tantissime persone, poi è un luogo turistico, quindi ci sono persone che vengono per un determinato periodo, poi tornano a casa, quindi è veramente una cosa diversa vivere qui a Milano che a Cittadella. Un grande cambiamento, quindi. Sì. Cittadella, quindi profondo Veneto, io so anche che non è stato sempre facilissimo. Con i miei compagni di classe o amici non ho mai avuto questi problemi perché l'aspetto fisico non contava, anzi. Quando ci sono stati, se ci sono stati dei problemi? E magari quando andavo a fare una partita, queste cose che succedevano a tutti, c'erano dei fischi oppure dei commenti non proprio carini da sentire. Ma Ora legati nello specifico al razzismo oppure così? sì. Delle battutine che potrebbero dar fastidio. Non lo so, torno al tuo paese, va a pulire i cessi. Cioè, Quanto questa cosa l'ha ferita? poco, perché erano persone che non conoscevano e secondo me non molto intelligenti. Beh, questa è un'affermazione molto matura. È sempre stato così, è un atteggiamento e una sicurezza che ha adesso. È una sicurezza che ho adesso, Ci sì. sono stati però anche grandi successi. È stato per lei una rivincita? Sì, perché comunque chi si impegna prima o poi raggiunge degli obiettivi. E quali altri obiettivi cercherà di raggiungere? Qual è il suo sogno? Beh, il sogno di ogni atleta penso sia andare alle Olimpiadi. Quindi insomma Rio. Sì. Ci fermiamo brevemente e torniamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio24, la passione si sente. Anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Yeah. Torniamo in onda con Indovina chi viene a cena. Questa sera abbiamo con noi un'atleta con la maglia azzurra, Paola Enogu, nata a Cittadella da genitori nigeriani, che è appunto una stella della pallavolo femminile. Paola, stavamo parlando con lei del futuro, no? E quindi della possibilità, del sogno di andare in Brasile, a Rio, per queste Olimpiadi. Cosa dicono i suoi genitori della sua carriera? Sono molto felice e orgogliosa di me. Quando magari sono in un periodo di difficoltà, sono loro che mi spronano e mi fanno trovare altre motivazioni per andare avanti, però per loro è comunque importante la scuola, quindi mi ricordano sempre che l'educazione è sempre il punto di partenza per tutto ciò che vorrò fare poi in futuro. E so che anche i nonni sono contenti in Nigeria. Com'è andata questo incontro, rincontro con il nonno quando gli ha portato questa maglia azzurra della nazionale italiana juniores? È stata un'esperienza bellissima, perché era la prima volta che dopo tanto tempo che vedevo i miei nonni, e portargli questo regalo è stato molto emozionante per loro, e non vedo l'ora di tornarci. Perché lei torna periodicamente in Nigeria, no? Di solito ogni 2-3 anni. È un posto tranquillo e che, cioè, mi mette felicità, nel senso sono felice perché stacco da tutto, non penso a nessun altro che a me stessa, alla mia famiglia e a come spendere del tempo con loro. Quindi per me è un luogo di gioia. Ha mai pensato di andare a vivere in Nigeria o si sente pienamente italiana? Il mio sogno sarebbe, più avanti, magari finita la carriera e tutto, andare a vivere in Italia. Sì, sogno di andarci, perché comunque avrei tutti i miei parenti e sarebbe una cosa bellissima. I suoi genitori si sono trasferiti per motivi di lavoro dall'Italia? Sì, si sono trasferiti a Manchester. E mia mamma era un'infermiera e mio papà era un camionista. Un camionista. E da poco si sono trasferiti a Manchester perché? Per la crisi economica? No, perché volevano cambiare strada e vedere com'era in un altro posto. Quindi hanno cambiato completamente vita ancora una volta. Un esempio quindi di capacità di rinnovarsi per lei. Sì. Che comunque insegna a non mollare mai, ma a inseguire i propri obiettivi o sogni. Nobody can beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can hold, make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Girl, I gotta ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Senta, al di là dello sport e del sogno di andare a Rio, lei diceva che persegue anche gli studi scolastici, ci sono altri sogni che vorrebbe portare avanti? C'è una professione al di là dello sport che vuol portare avanti o vuol fare proprio l'atleta di professione? No, vorrei anche riuscire a diplomarmi e in economia o diritto. Come here. Grazie Paola, la ringrazio per essere stata con noi stasera. Buona serata. Grazie, grazie a voi e buona serata anche a voi. Il riso jollof è un piatto tradizionale della cucina nigeriana. Si tratta di un ricco piatto unico, piccante. Ingredienti: mezzo bicchiere di olio di semi o di arachide, un pollo tagliato a pezzi, un litro circa di brodo o acqua, due cipolle affettate, tre o quattro spicchi d'aglio tritati, tre o quattro cucchiai di concentrato di pomodoro, 750 g di pomodori maturi freschi pelati e privati dei semi, o un uguale quantitativo di pelati, un peperone a pezzetti, due carote pulite e tagliate a pezzetti, 250 g di fagiolini puliti e tagliati, 250 g di cavolo pulito e tagliato, peperoncini rossi piccanti a piacere, 500 g di riso a grana lunga, sale quanto basta, uova sode e banane fritte per accompagnare a piacere. Preparazione: scaldate l'olio sul fuoco medio-alto in un capace tegame. Fate rosolare il pollo facendolo diventare dorato da tutte le parti. Mettete il pollo in un'altra casseruola assieme al brodo, portate a bollore e cuocete una ventina di minuti. Nel frattempo mettete due o tre cucchiai di olio usato per cuocere il pollo in un altro tegame, unite la cipolla e i peperoncini piccanti e cuocete 4 o 5 minuti. Unite l'aglio e cuocete ancora un minuto o due. Versate il pollo con tutto il suo brodo e unite il riso e tutte le verdure. Aggiustate di sale, portate a bollore e sobbollite per altri 20 minuti. Togliete dal fuoco, lasciate riposare per 10 minuti e servite decorando con uova sode e accompagnando con banane fritte. Non le banane solite, ma quelle speciali che trovate nei negozi di prodotti etnici. E ora cambiamo completamente argomento. Andiamo in libreria perché da pochi giorni è uscito un romanzo, Il giorno dopo, delle edizioni Ponte Sisto, scritto da Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Andrea, che cosa ti ha spinto a scrivere non tanto un saggio oppure un libro dei tuoi interventi come portavoce di UNICEF, ma proprio un romanzo della narrativa? Nasce proprio dall'esigenza di poter raccontare in un'altra maniera, come ho già fatto e come faccio, diciamo, tutti i giorni per motivi di lavoro, e poi come ho fatto anche attraverso il teatro, portando in scena in alcune città d'Italia questo piccolo spettacolo che si chiama In Viaggio, dove racconto appunto della mia attività e degli incontri che ho fatto verso questi paesi e soprattutto dei bambini che ho incontrato, la disperazione che ho visto, le emergenze che ho trattato. Ecco, diciamo che il libro rappresenta probabilmente il punto finale di un percorso di questo tipo, cioè l'utilizzo appunto di uno strumento per poter arrivare al maggior numero di persone possibile, per poter sensibilizzare, raccontare storie che spesso non racconta nessuno, oppure storie che oggi sono naturalmente storie di tragedie, di catastrofi, che occupano le prime pagine, ma che invece fino a ieri, proprio quando ho scritto questo libro, cioè 2 anni fa, erano completamente ignorate, tanto dai media quanto, diciamo, nella normale comprensione dei cittadini comuni. È un romanzo di formazione, tutto sommato, la storia di una crisi di un uomo che fa politica, che è un attivista e che si trova di fronte ai suoi fantasmi di crescita, no? Sì, è un romanzo che ho scelto di fare in maniera abbastanza differente rispetto a quello che può essere, diciamo, una narrativa corrente. L'idea è quella di non raccontare direttamente le storie, gli aneddoti, i percorsi che ho incontrato in Iraq, in Giordania, in Libano, al confine con la Siria, oppure in Africa nei miei viaggi. No, ho preferito, attraverso naturalmente un personaggio inventato, Enrico, raccontare prima l'uomo, cioè raccontare la storia di un uomo normale che fa una vita normale, che fa incontri normali, che ha una famiglia normale, un uomo assolutamente con pregi e difetti, che si racconta prima ancora di poter raccontare poi come la sua vita in realtà invece cambia quando incontra, ecco, lo uso spesso la parola incontra perché è proprio il termine che diciamo dà la giusta dimensione di quello che accade, proprio incontra invece l'impegno umanitario, ecco lì la sua vita realmente cambia. È l'idea di un antieroe, sarebbe stato troppo semplice, no? Raccontare tutte le cose che ho visto. Beh, era più importante, secondo me, fare un'operazione invece sulla persona, capire che un uomo qualunque oggi si può trovare per motivi di lavoro a vedere un mondo che è gigantescamente, per usare un termine non corretto ma che rende l'idea, più grande di quello che lui pensa e soprattutto più doloroso. L'idea nasce dal fatto che noi tutti abbiamo un giorno dopo. Noi siamo in un mondo di fortunati, i nostri figli lo sono, è inutile negarlo, malgrado abbiamo i nostri problemi, la nostra quotidianità. Però in realtà tutti noi abbiamo sempre una panchina, che poi è il luogo dove è ambientato il romanzo, questa panchina a Villa Borghese, dove si rifugia dopo questa proposta improvvisa che gli viene fatta proprio da quel mondo della politica che lui ha frequentato per 20 anni e che ha lasciato perché lo ha profondamente deluso. Ecco, però noi abbiamo in fondo tutti un luogo dove immaginare un giorno dopo, un posto dove lui, il protagonista, ricomincia, no? E racconta quante volte nella vita ha potuto scegliere per ricominciare, quindi per poter immaginare un giorno dopo, ha potuto scegliere di cambiare lavoro, ha potuto scegliere di cambiare fidanzata, perché va detto, ha potuto scegliere di cambiare atteggiamento rispetto agli altri, che tanto da evitare di non avere più attacchi di panico, ha scelto spesso di andare, come dire, contro invece quei luoghi comuni e quei cliché che per tanto tempo avevano di fatto organizzato la sua vita, perché la sua famiglia glielo aveva, non dico imposto, ma in fondo lo aveva instradato verso alcuni certi tipi di percorsi. Ecco, invece dall'altra parte del mondo ci sono persone, che poi è un po' la domanda che sottintende il libro, che forse il giorno dopo non ce l'hanno. Forse bisognerebbe domandarsi, quando si leggono queste pagine, esiste davvero un giorno dopo? Cioè, per tutti? Esistono dei paesi dove incontri questi bambini che hanno purtroppo conosciuto la fuga, che non è un viaggio, che sono arrivati anche in Europa, ma di cui io nel libro purtroppo parlo di 3 anni fa, cioè quando in realtà esplode in tutta la sua evidenza la crisi siriana, quando non ne parlava nessuno, e questi bambini praticamente sono stati costretti a lasciare tutto ed arrivare qui, oppure nei paesi vicini alla Siria, in Iraq, in Giordania e in Libano. E la domanda, nel vederli, nell'incontrarli, oppure nel leggere quotidianamente il bollettino di morte che li riguarda e che riguarda tanti civili che hanno perso la vita, in Siria sono morte oltre 400.000 persone, la domanda è: ma questi bambini hanno un giorno dopo, esattamente come me? Hanno la possibilità di scegliere esattamente come me? Beh, diciamo, sulle prime verrebbe da pensare e da dire no, non ce l'hanno, perché sono in un campo profughi tra la melma, il fango, le tende, i container, dove passano le loro giornate, spesso sono sottoposti a qualsiasi tipo di rischio, oppure nella sofferenza di non tornare a casa. Però poi, quando, analizzando le loro storie, guardando i loro occhi, incrociando i loro racconti, ti accorgi che c'è tanta speranza in quello che fanno, in loro e nei loro genitori, che invece vogliono regalare a loro un giorno dopo, malgrado tutto. Ecco, forse la risposta poi che si dà al protagonista è quella che sì, anche loro hanno un giorno dopo, ma che il compito di una persona che lavora nel mondo umanitario, e che soprattutto, lo voglio ripetere, non è un eroe, anzi è un antieroe, perché non salva nessuna vita, ma deve solo raccontarla, perché il protagonista è un giornalista, è il portavoce di un'organizzazione umanitaria. Ecco, appunto, forse l'idea è quella che il suo ruolo deve essere proprio quello anche di regalare un giorno dopo, attraverso la possibilità di far conoscere a tutti la realtà delle cose, perché troppo spesso oggi nei talk show, troppo spesso oggi nelle trasmissioni, si invita a parlare di argomenti che riguardano queste parti del mondo persone che non sanno neanche che cosa accade. Accade per temi come i vaccini, l'abbiamo visto sul caso Red Ronnie, a che è accaduto anche recentemente su un servizio molto interessante che riguardava i bambini sfruttati per lavoro in Siria, che hanno purtroppo ospitato i soliti personaggi della politica, di una certa politica, che servono ad alzare lo share, ma diciamo non servono invece a rassicurare gli italiani che non stiamo vivendo un'invasione, che non devono avere paura, e che ci sono paesi nel mondo che io ho visitato e di cui racconto nel libro che subiscono invasioni vere e proprie. Basti pensare al Libano, dove ci sono 1,5 milioni di siriani, alla Turchia 2,5 milioni, alla Giordania 1 milione. Ecco, che invece devono accogliere e accolgono queste umanità indifese ben, in maniera molto più diciamo difficile e complessa di come sta facendo invece questa Europa, che non decide, un'Europa di 500 milioni di abitanti, che è molto attrezzata per accogliere turisti, ma che lo è molto meno per occuparsi di queste cose. Mr. Johnson must get out. He runs to get out. He wanna feel the sun. warming his mind. He better watch out, not gonna burn out, finding his way, flying away. He runs to get out, he rushes to get out. He wanna feel the sun warming his mind. He better watch out, not gonna burn out, finding his way, flying. Grazie ad Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, il giorno dopo in libreria per Edizioni Ponte Sisto. Grazie Andrea, buona serata. Ma grazie davvero a voi. E per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24 e Sole 24 Ore per un'altra puntata di Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, a sabato prossimo. You've got to give a little, that's the glory of love.